24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:22 minuti, eccoci qui, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Riparte una settimana di 24 mattino. Nel nostro sondaggio oggi parliamo dell'ultima puntata di Vieni via con me questa sera con Fazio e Saviano, e del fatto che non andranno i rappresentanti dei cosiddetti movimenti pro vita. Vi chiediamo, secondo voi è giusto, sarebbe giusto invece dare spazio ai movimenti pro vita? Questo è il tema del nostro sondaggio, trovate questo tema molto sviluppato anche sui quotidiani di oggi, quotidiani che sono in edicola e che andiamo a sfogliare. Coyote, il primo localizzatore di autovelox in tempo reale. mycoyote.net vi presenta In primo piano. Lunedì 29 novembre 2010, il terremoto WikiLeaks che travolge anche le prime pagine dei giornali italiani come di mezzo mondo. Giudizi e misfatti della diplomazia americana, così apre il Corriere. WikiLeaks, tempesta sul mondo, secondo me il titolo più efficace, quello di Repubblica. Ecco i segreti dei potenti per il giornale e così via, il terremoto delle carte segrete per il Messaggero. L'Unità invece si concentra sui rapporti che coinvolgono Berlusconi e Putin, li mette in foto in prima pagina, il capobranco e il portavoce. Il capobranco è Putin e il portavoce sarebbe Berlusconi. Io voglio partire da una segnalazione che trovate sul Quotidiano Nazionale a pagina 10. Detto che oggi i giornali sono un po' monopolizzati da questa vicenda WikiLeaks, dalla politica noiosissima oggi, questa domenica davvero noiosa, e da un po' di notizie di cronaca. Ne ho trovata una molto interessante a pagina 10 del Quotidiano Nazionale. Firenze, in classe tutti cinesi, è la soluzione contro l'isolamento. È una notizia che arriva da un istituto, l'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze, dove il 70% degli iscritti sono stranieri, sono 700.000 gli alunni stranieri in tutta Italia. L'esperimento si basa su un paradosso: i cinesi tendono a chiudersi nella loro comunità, hanno difficoltà di comunicazione con gli italiani, e allora proviamo a farli stare tra loro, a curarli con la loro stessa debolezza. Proviamo a vedere se invece di sentirsi spaesati e di andarsene al primo ostacolo, invece di bocciare e quindi tornare nelle fauci delle comunità lavoro, si affezionano all'idea della scuola, studiano, allargano gli orizzonti, diventano adolescenti liberi, alla fine più aperti e dunque più integrabili. Così è nata l'idea di formare una sezione per soli cinesi all'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze, una normale scuola secondaria statale con indirizzo turistico commerciale. Ovviamente è stata scavalcata la circolare ministeriale che imporrebbe un massimo del 30% di stranieri in classe. È stata fatta questo esperimento da un professore che è anche uno psicologo, e pare che stia dando i primi buoni frutti. Ragazzi che parlano poco l'italiano, in genere se intervistati spiegano che dopo la scuola dovranno aiutare i genitori nelle ditte di pelletteria o nei negozi affini, non sanno appunto molto bene la lingua, hanno difficoltà a inserirsi se vengono messi 1, 2, 3, 4 in una classe di italiani. Invece pare che, come testimonia anche l'insegnante di italiano, di lettere, che all'inizio ha detto: quando ho saputo ho subito chiesto un appuntamento al preside per farmi spostare, non volevo insegnare lì, poi dopo la prima lezione ho cambiato idea, la cosa ha iniziato subito ad appassionarmi. Insomma, interessante. Firenze, in classe tutti cinesi, è la soluzione adottata dal preside contro l'isolamento. Per il momento le promozioni sono raddoppiate nella sezione monoetnica. Dunque i risultati, racconta almeno in questo articolo del Quotidiano Nazionale Gerardina Fichter, si starebbero vedendo. E allora ripartiamo dopo pubblicità e meteo proprio dal terremoto WikiLeaks che sta letteralmente sconvolgendo la diplomazia mondiale. Tra pochissimo. In primo piano. La tempesta WikiLeaks si è abbattuta sulle diplomazie di mezzo mondo. Poco fa vedevo in TV, passava la prima pagina del País in Spagna, e il titolo di prima pagina era su questo, insomma, i documenti scoperti della diplomazia americana. Tutti i giornali mondiali titolano su questo, vale a dire 251.287 documenti diffusi ieri da questo sito WikiLeaks, che sono un calcio in faccia alla diplomazia, come racconta il Corriere della Sera a pagina 2. Perché? Perché sono informazioni e cablo che dovevano rimanere riservati, coprono un periodo ampio dal 1966 fino al 2010. Ora i primi sono stati fatti sapere, sono stati resi noti, sono i documenti nei quali gli ambasciatori, i funzionari americani in tutto il mondo, come definivano i rappresentanti politici dei paesi che li ospitavano. E ce n'è davvero da rabbrividire. Per esempio Sarkozy, l'imperatore nudo, un atteggiamento autoritario e senza scrupoli con i suoi collaboratori. Kim Jong-il, il leader della Corea del Nord, definito un vecchio ciccione traumatizzato dall'ictus. Muammar Gheddafi usa il botulino, è un vero ipocondriaco, all'amante ucraina bionda e procace di 38 anni da cui non si separa mai. Ahmadinejad, presidente dell'Iran, negli Emirati tutti sono concordi nel ritenerlo non equilibrato, forse addirittura un pazzo. E anche Cristina Kirchner, la presidentessa argentina, bisogna controllarne lo stato di salute mentale. Sono davvero dei commenti che, se fossero rimasti riservati, sarebbero ovviamente dei commenti, che quotidianamente ci sono, ma ovviamente una volta che vengono disvelati, ecco, viziosi, maniaci, deboli, pericolosi, anche questo per Repubblica, Federico Rampini, ecco i leader americani visti da Washington. Ovviamente in Italia i giornali italiani si concentrano molto sui rapporti che riguardano l'Italia. E allora, Berlusconi, parti selvaggi e Putin, le accuse al Premier, così a pagina 5 del Corriere della Sera. I diplomatici americani, sembra il portavoce del presidente russo, che invece è definito il capobranco. Ecco perché l'Unità, come detto, ha messo in prima pagina Putin e Berlusconi col titolo il capobranco e il portavoce. E la Clinton, tra l'altro, Hillary Clinton ha chiesto informazioni su eventuali affari comuni, cioè su eventuali affari privati del presidente Berlusconi con Putin. Come ha commentato Berlusconi? Ufficialmente con il silenzio. Sapete che ieri Frattini ha detto sarà comunque l'11 settembre della diplomazia mondiale, perché chiaramente si vengono a sapere delle cose anche molto molto private, anche molto serie. Per esempio che l'Arabia Saudita in privato avrebbe chiesto agli Stati Uniti di attaccare l'Iran. Questa è una notizia sicuramente importante. Ebbene, secondo Francesco Bei, il retroscena su Repubblica, le rivelazioni mi sono fatto una risata. Una risata anche per il Corriere e la reazione di Berlusconi, che ufficialmente non commenta. Secondo però Repubblica, avrebbe detto a un ministro che ha cercato ieri di contattarlo ad Arcore: figuriamoci se qualche magistrato in vena di protagonismo adesso non proverà a mettermi in mezzo. Certo, non aiuta il fatto che Berlusconi oggi partirà e andrà proprio da Gheddafi, mentre domani andrà in Kazakistan e vedrà anche Putin, vale a dire i due personaggi su cui WikiLeaks, per quel che riguarda l'Italia, si concentra di più. Il ministro della difesa Ignazio La Russa, intervistato a pagina 6 del Corriere, il Corriere fa le prime 10 pagine dedicate a WikiLeaks, proprio con la dicitura in alto nelle pagine WikiLeaks. Ebbene, Ignazio La Russa dice: un gossip scadente, non dobbiamo metterci a esaminare una a una queste informazioni, sembrano uscite da giornaletti specializzati nei gossip. Non accetto questo tipo di lettura per dire che Berlusconi non gode all'estero di un'immagine positiva. Quando uno è convinto che queste notizie devono restare riservate, non dice le cose che poi compongono una valutazione che deve resistere alle osservazioni di chi le legge. Qui ci si butta sull'ovvio, sul banale. Mi riferisco per esempio a quella secondo cui Berlusconi appare stanco perché va a letto tardi. Siamo al ridicolo. La Russa comunque dice: non cambierà il sistema di relazioni diplomatiche. Certo, ha ragione Frattini a dire che qualcuno con questa fuga di notizie ha creato una sorta di 11 settembre della diplomazia. Intanto, la domanda che si pongono tutti, me la ponevo anch'io ieri: ma questo Julian Assange, questo australiano molto criptico che ha creato questo sistema, dove è finito? Perché è ricercato con un mandato dell'Interpol per stupro in Svezia, anzi un paio di stupri. E infatti il Messaggero a pagina 5 dice: caccia ad Assange, il padre di tutte le soffiate, dove si trova l'uomo del mistero? Mentre le diplomazie del mondo tremano sotto i colpi di WikiLeaks, lui è il fondatore di questo sito, e sembra svanito nel nulla, tutti lo cercano, molti gli danno la caccia come l'Interpol, lui pare ormai descritto come ossessionato, paranoico, terrorizzato, convinto di essere spiato, intercettato dall'intelligence americana, qualcuno ieri lo dava in viaggio per Londra, altri per in Svizzera con una possibile richiesta d'asilo politico. Qualcuno dice invece proprio in Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna non fa parte dell'accordo di Schengen e dunque il mandato d'arresto dell'Interpol non avrebbe validità. Certo, una vita in continua fuga, d'altronde lui ha avuto una vita un po' così, già era figlio di teatranti ambulanti e quindi una vita sempre in giro in Australia, 17 anni se n'è andato di casa, 18 anni è diventato papà. Ma il suo passato è nascosto da una ragnatela di mistero, fa sapere anche il Messaggero in questo articolo di Deborah Ameri. Certo, WikiLeaks ha sicuramente e anche nei prossimi giorni prenderà il sopravvento come notizia. Come detto, la politica invece ha vissuto una giornata di totale stanca ieri. Le notizie più eccitanti sono quelli di Generazione Italia, cioè la fondazione di Fini che ha fatto una sorta di scherzo a Berlusconi. Ha messo sul proprio sito una lettera che si conclude così: Presidente Berlusconi, consideriamo conclusa negativamente l'esperienza di questo governo. Il suo governo ha inteso la governabilità come fine a se stessa, il potere per il potere, un governo dei conflitti con la magistratura, col sindacato, lo Stato non è lei, dopo di lei non c'è il diluvio. Dunque si dice, attenzione, allora i finiani hanno deciso di staccare la spina? No, era il testo che Bossi nel 94 fece in Parlamento, del discorso che fece Bossi in Parlamento quando poi ci fu la sfiducia, e quindi uno scherzo, lettera di sfiducia al Cavaliere, beffa finiana con le parole di Bossi. Tanto che il ministro Calderoli fa un'intervista a Rodolfo Sala su Repubblica, dice basta con le provocazioni incrociate, giocare con le parole in un momento di gravissima difficoltà del paese non fa certo onore a questi signori. Nel 94 la Lega aveva posto un problema serio, in ballo c'erano le pensioni della gente, e poi la Lega, dice Calderoli, lavora per il patto in extremis, cioè si siedano Berlusconi e Fini attorno a un tavolo e si scriva un'agenda nuova di governo. Insomma, avete capito a che livello di noia siamo arrivati per quel che riguarda la politica, con Repubblica che ancora fa una paginata sulle donne e Berlusconi. Prima riprende l'intervista che Nadia Macri, professione per sua stessa missione escort, ha fatto ieri a Sky TG24 a Maria Latella e ha detto ad Arcore Villa Certosa c'erano tante giovanissime. Poi Paolo Berizzi racconta della storia di questa attrice bulgara, Michelle Bonev, di cui abbiamo già parlato, che avrebbe ricevuto un premio finto al Festival di Venezia. Berlusconi mi disse ok al festival perché voi bulgari avete belle attrici. Tra l'altro in questo articolo Paolo Berizzi mette addirittura questa frase testuale: nel 20 giugno 2009 una telecamera di Sky cattura una chiacchierata al Consiglio europeo a Bruxelles tra Berlusconi e l'allora primo ministro bulgaro Stanishev. Parlano di Darina Pavlova e, secondo Repubblica, Berlusconi dice questo: la verità è che Pavlova ha una figlia fantastica e tu conosci il mio interesse per le minorenni. Questo al premier bulgaro. Una frase durissima messa da Paolo Berizzi su Repubblica. Sta di fatto che la politica è tutta qui. E la politica internazionale, invece, economica internazionale, ieri ha avuto un passaggio molto importante perché gli 85 miliardi per salvare Dublino sono stati stanziati. L'Ecofin ieri, dopo la Grecia, ha deciso di salvare o provare a salvare anche l'Irlanda. Come previsto, il piano d'aiuti sarà di 85 miliardi di euro, finanziato dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. È stato tutto approvato ieri al vertice straordinario dell'Eurogruppo, che riunisce l'organismo che riunisce i 16 ministri economici e finanziari. C'era anche Tremonti che ha detto davanti ai mercati l'Unione Europea ha cercato di essere più unita. Ci sono varie pagine che vi segnalo. L'Ecofin lancia il Fondo Monetario Europeo. Questa è una notizia nella notizia, cioè nel giorno del salvataggio è stato lanciato questa sorta di organismo, almeno sono state gettate le basi di un organismo che si atterrà ai parametri del Fondo Monetario e come quest'ultimo interverrà a sanare i problemi di liquidità degli stati. Quindi così titola il Corriere, la notizia più importante più del salvataggio è questo nuovo organismo che potrebbe essere lanciato. E anche Andrea Greco su Repubblica, l'Europa salva l'Irlanda via il piano da 85 miliardi. Mentre per quel che riguarda il Sole 24 Ore voglio dare la prima pagina dedicata al federalismo, conti in rosso nelle società. Federalismo alla prova finale. Ci si concentra su questo nell'edizione del lunedì del Sole, perché questa è una settimana decisiva per l'attuazione del federalismo dopo i contrasti con le autonomie locali. Il confronto ora si sposta sui numeri e tra l'altro a pagina 2 e 3 trovate due pagine molto interessanti di dati legati al federalismo, soprattutto la pagina 3 di Cristiano Dell'Oste e Gianni Trovati, federalismo conti in rosso nelle città. Le sorti del federalismo municipale e della cedolare secca sono agli sgoccioli, nel senso che si sapranno in questi giorni, perché per partire davvero nel 2011 la tassa piatta non può più attardarsi ai box. Entro domani dovrebbero emergere le fantomatiche aliquote di riequilibrio, cioè le richieste che la futura imposta municipale propria sul possesso degli immobili dovrà avanzare ai contribuenti per pareggiare che cosa? Per pareggiare il gettito dei tributi destinati alla soppressione con il federalismo. E c'è un'interessante pagina dedicata a questo, dedicata al bilancio dei comuni, ve la segnalo a pagina 3 sul Sole 24 Ore. Mentre, e da qui ripartiremo dopo il traffico, ci sono tantissime interviste, commenti su quello che è il tema del nostro sondaggio, vale a dire i pro vita da Fazio. Nell'ultima puntata non ci saranno, ma ci sono delle interessanti interviste, tra cui una Roberto Saviano, intervistato dal Corriere. Saviano che insiste: Maroni ha fatto un errore ad arrabbiarsi. Tra poco. In primo piano. Saviano, ora mi fermo per un po'. E Maroni ha fatto un errore ad arrabbiarsi. Marco Imarisio per il Corriere della Sera intervista Saviano a pagina 13, oggi l'ultima puntata. Saviano dice: ora cercherò di finire il mio prossimo libro. Il mio vero capolavoro non sarà fare un'altra Gomorra o una nuova trasmissione per milioni di persone, ma cercare di ricostruirmi una vita. Ce la sto mettendo tutta, ma non so come andrà a finire. Saviano che definisce un miracolo Vieni via con me. Abbiamo fatto un programma contro l'editore. È stato bello, ma ora mi fermo. E poi torna sulle polemiche. Maroni ha assolutamente sbagliato ad arrabbiarsi. Io ho raccontato le inchieste. Dire che non hanno portato all'arresto di politici leghisti, che ragionamento è? Un'inchiesta racconta un clima culturale, un modus operandi. L'Andrangheta interloquisce coi poteri del nord e dove c'è la Lega si rivolge alla Lega. E poi sulla vicenda dell'arresto di Antonio Iovine. Non scherziamo, Iovine non l'ha mica arrestato Maroni, era 16 anni che lo cercavano. Lo ammetta, anche lei ha pensato che quello di Iovine fosse un arresto a orologeria? In molti l'hanno fatto, io non ci sto, detesto la dietrologia. Iovine era un capo e adesso è in galera. Ed ecco poi il tema di questa sera, perché i pro-life non vengono, è il tema del nostro sondaggio. Perché raccontare una storia d'amore come quella tra Piero Welby e sua moglie Mina non significa oscurare altre voci. Chi dopo 40 anni di sofferenza ha chiesto di fermare la macchina a cui era attaccato non è contro chi invece continua a sperare in quella macchina che lo tiene in vita. Il mio era un racconto d'amore, di sentimenti, di libere scelte. Non c'era nulla a cui replicare. Tra l'altro alle 8:30 Mina Welby sarà nostra ospite. Come sarà ospite Fulvio De Nigris, uno degli esponenti dei Pro Vita. Noi lo facciamo, siamo una radio libera, li mettiamo a confronto, li facciamo parlare. E poi Pino Daniele che di recente, sapete, ha detto: se fosse davvero scomodo Saviano l'avrebbero già ammazzato. Che ne pensa? Rispondo con le parole di Falcone, dice Saviano. Questo è il paese felice dove per essere credibili bisogna essere uccisi. Non so, mi verrebbe da dire: prima di parlare studiate di più. Io non me la prendo, ma è tipico dell'ignoranza. Questo Saviano, una bella intervista di Marco Imarisio, poi ancora dice non andrò in politica. Viene intervistato anche Fabio Fazio su Repubblica. Milioni di italiani sognano un'altra TV, ma questa Rai non lo sopporta. Dunque Fazio, anche lui, viene intervistato a Curzio Maltese. E poi i commenti, come dire, il commento di Giuliano Ferrara, il tradizionale commento in prima pagina del Foglio: caro Fazio, quelle di Welby e Englaro non sono storie private. Non mi piace l'idea che si debba chiedere a Fazio la riparazione, inizia così Ferrara, ma la spiegazione del dire non venite, non debbono venire i pro-life perché noi non abbiamo fatto una puntata pro-morte è una spiegazione ipocrita. Bisogna evitare l'ipocrisia, scrive Ferrara. Negare ai malati, ai loro parenti, alle associazioni che li tutelano il diritto di replica non lo si può fare spacciando le testimonianze di Mina Welby e Beppino Englaro come faccende private. Quelli erano manifesti ideologici. Come manifesti ideologici sarebbero stati, se ammessi al cospetto dell'imperatore televisivo, pubblico e conduttori, quelli dei malati di SLA che vogliono vivere ed essere curati. Detto questo, conclude Ferrara, come ha notato Aldo Grasso, è incredibile quanto sia forte, esclusiva, brutale l'egemonia del linguaggio televisivo di sinistra in Italia. Come mai in TV non passa una sensibilità diversa da quella del militantismo di contropotere? Come mai non c'è una TV liberale, una TV con sense of humor, una TV cattolica, di destra, una TV capace di guardare i problemi del tempo e giudicarli con uno schema che non sia pregiudizialmente orientato nel senso dei Fazio e delle Dandini? Non è il segno del fallimento di una classe dirigente, dell'incuria verso il linguaggio, la cultura dell'Italia, che poi accattona una riparazione in onda sugli schermi di Rai 3? Questo Giuliano Ferrara. Infine anche Francesco Piccolo, che credo sia uno anche degli autori di Vieni via con me, scrittore, tiene la consueta rubrica su L'Unità a pagina 3 e dice: quello che i movimenti pro vita e molti cattolici poco generosi non capiscono è che non abbiamo parlato contro nessuno noi, per un motivo semplice: noi siamo totalmente d'accordo con le loro tesi, abbiamo già accettato le loro ragioni a priori, sono loro a non ammettere le ragioni degli altri. E dunque Francesco Piccolo dice: ma il racconto laico non è contro. Comunque la pensiate, votate il sondaggio su radio24.it, noi ne parleremo alle 8.30. C'è solo da concludere con la Gazzetta dello Sport. È il giorno dell'Inter. Inter, ricomincio da 5, c'è uno Stankovic felice. L'Inter ha vinto ed è l'unica, diciamo, delle pretendenti allo scudetto che ha vinto, perché tutte le altre hanno pareggiato o perso. E poi ci sono due pagine centrali su Barça-Real. Barça-Real, Barcellona-Real Madrid stasera alle 21. Per chi è appassionato di calcio e magari anche calcio estero, beh, c'è la sfida delle sfide, ovviamente. Chissà se farà una murignata delle sue Mourinho, l'allenatore del Real Madrid. Ci fermiamo ora, il GR 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8.21 minuti. Saluto il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini. Buongiorno dottor Cascini. Buongiorno. Senta, domani viene annunciata una riforma della giustizia. Per la verità, voi avete incontrato nella vostra assemblea il ministro Alfano, che non ha fatto parola su questo. Voi che tipo di riforma temete o non volete o suggerite? Noi chiediamo da tempo delle riforme che mettano la giustizia in grado di funzionare, delle riforme cioè che riducano i tempi di durata delle procedure e consentano a noi magistrati di dare risposte in tempi ragionevoli ai cittadini che chiedono giustizia. La politica da anni si occupa di altro, si occupa di riforme di struttura che dovrebbero regolare meglio dal punto di vista della politica il ruolo della magistratura nei confronti del potere politico, in particolare delle illegalità ascrivibili al potere politico. Quindi si parla di separazione delle carriere, di controllo sul pubblico ministero, di riduzione dei poteri del CSM, tutte cose delle quali noi saremmo anche disposti a ragionare, a discutere serenamente e seriamente, se non fossimo in un'emergenza drammatica che chiama in causa la responsabilità di tutti per la durata dei processi. Cioè dice le priorità sono altre, però per esempio il controllo dei PM, il ministro Alfano è stato chiaro, non vogliamo i PM sotto l'esecutivo, questo vi tranquillizza? Ci tranquillizza dal punto di vista delle intenzioni, poi però le proposte concrete che vengono messe in campo secondo noi sono oggettivamente pericolose per la tenuta delle garanzie di questo organismo, quindi si può anche dire a parole che non si vuole mantenere l'indipendenza del pubblico ministero, ma poi se per esempio si disloca altrove, sulla polizia giudiziaria ad esempio, il potere di investigazione, di indagine, di direzione delle indagini, di fatto questa indipendenza viene mantenuta sul piano formale ma viene svuotata di contenuti. Senta, perché la separazione delle carriere, cioè l'idea che uno faccia o il giudice o il magistrato è così peregrina? No, non è un'idea peregrina, il problema è che nel sistema italiano un pubblico ministero indipendente ed autonomo, che si amministra da sé e che quindi ha un proprio organo di autogoverno, diventerebbe un centro di potere autoreferenziale difficilmente governabile. Oggi inserito all'interno della cultura della giurisdizione e nell'organo di autogoverno della magistratura, il pubblico ministero dà maggiori garanzie ai cittadini. Noi ci preoccupiamo del fatto che creare un organismo composto da 1.000-2.000 funzionari dello Stato, che ha il potere di gestire la polizia giudiziaria e che si amministra da sé, sia una tale anomalia rispetto ai contesti di tutti i paesi occidentali, da rendere questa situazione non gestibile per molto tempo e quindi creare i presupposti perché poi si arrivi a una forma di dipendenza dal potere politico. In realtà in quasi tutti i paesi occidentali o c'è un sistema di funzionariato in cui tutti i magistrati, il pubblico ministero e i giudici sono nominati per concorso e possono passare da una funzione all'altra, sì, oppure c'è un sistema di cooptazione politica, tra virgolette, nomina dall'alto o elezione, in cui le tre professioni, giudici, avvocati e pubblici ministeri, si interscambiano vicendevolmente. Io sono abbastanza favorevole a un sistema in cui le professioni forensi siano tutte in qualche modo mescolate, perché l'esperienza dell'avvocato e del magistrato sono sicuramente ricche, sì, e interessanti. Però lei dice sulla separazione in questo contesto, soprattutto con altri problemi, forse ci sono altre priorità, insomma, mi pare di capire. Ma io penso che dovremmo domandarlo ai nostri cittadini. Oggi una causa dura dai 13 ai 15 anni, una causa civile. Io chiedo sempre... Sai che si dà la colpa anche ai magistrati, che lavorano poco, questo è il classico. E il problema è che noi abbiamo pubblicato i dati e siamo i magistrati che producono più sentenze in tutta Europa. Ci sono magistrati, in media i magistrati fanno 700-800 sentenze l'anno. Se lei fa il conto di quante sono, sì, si può cominciare a pensare che se aumentiamo il numero delle sentenze c'è il rischio serio di ridurre la qualità delle decisioni, perché se si devono prendere tante decisioni ogni giorno diventa poi difficile, certo, anche assicurare un buon livello di qualità. Dottor Noi Cascini, abbiamo un contenzioso triplo rispetto a quello degli altri paesi europei. Solo Roma ha un numero di avvocati pari a quello della Francia. Questo è una... Uno di questi avvocati per sopravvivere deve fare delle cause. Dopo ci inimichiamo gli avvocati. Mi faccia fare un'ultima domanda. Ha visto il ciclone WikiLeaks? Ne ha sentito, insomma, ha letto i giornali, quello che è arrivato. Sì, anche se poi adesso ancora non si vede. No, però voglio dire, il ministro Frattini ha detto i magistrati dovrebbero valutare se ci sono ipotesi di reato, vale a dire, non so, che cosa possiamo ipotizzare? La sicurezza nazionale messa a repentaglio? Insomma, chi si potrebbe indagare, questo fondatore di WikiLeaks, cioè c'è spazio per la magistratura per indagare? Guardi, bisogna prima capire di che materiale si tratta. È chiaro che se si tratta di materiale coperto da segreto si potrebbero valutare ipotesi di violazione del segreto, così che se si tratta di materiale esplosivo in grado di mettere a rischio la sicurezza dello Stato si può anche ipotizzare reati contro la sicurezza dello Stato. Però ma contro chi? Contro un sito, contro un sito, col fondatore di un sito che non sta neanche in Italia? Cioè, questa è la... Ma guardi, questi reati sono perseguibili dovunque vengano commessi. Il problema è vedere se in realtà siamo di fronte a un'enfatizzazione di un problema reale, ma non così drammatico, oppure se c'è un reato, di che cosa si tratta. Certo. Francamente, quello che ho sentito fino adesso mi pare molto lontano dalla possibilità di ipotizzare attentati alla sicurezza. Però sono 250.000 file, staremo a vedere. Intanto bisogna capire che cosa c'è sotto. Intanto la ringrazio, Cascini, per essere stato con noi. Giuseppe Cascini, buona giornata, il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, vale a dire il sindacato dei magistrati. Oh, noi ci fermiamo per pubblicità e meteo e poi parliamo dunque dell'ultima puntata di Fazio e Saviano, del fatto che non ci saranno, a meno di ultimi colpi di scena, i cosiddetti rappresentanti dei movimenti pro vita. Il tema del nostro sondaggio è questo: secondo voi sarebbe giusto dare spazio invece ai movimenti pro vita? Dovete votare su radio24.it come state facendo in molti, oppure 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta tra poco. 24 mattino. Alle 8.34 minuti, eccoci qua. Quello che noi vi chiediamo nel nostro sondaggio su radio24.it è: secondo voi, se bisognerebbe dare spazio, come hanno chiesto con una campagna e chiedono con una campagna su Avvenire da giorni, anche i cosiddetti movimenti pro vita, nell'ultima puntata di Fazio e Saviano questa sera. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Ne vogliamo parlare con tre ospiti. Intanto io voglio salutare e ringraziare Fulvio De Nigris, al quale do buongiorno. Buongiorno De Nigris. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qui con noi. Fa parte dell'Associazione Amici di Luca, il direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma dell'associazione. posso dire che ha fondato la Casa del Risveglio, ha contribuito ovviamente a fondare. Sì, lo può dire, siamo in tanti ovviamente, però insomma diciamo io sono un po' il portavoce, certo, di questo grande esperimento. Dedicato ovviamente alla memoria di vostro figlio, Luca. Saluto Mina Welby, buongiorno signora Welby. Buongiorno. La moglie di Pier Giorgio Welby. Io sono contento perché voglio e vorrò che vi parliate, Mina Welby e Fulvio De Nigris. E poi voglio salutare, lo ringrazio immensamente per essere con noi, un scrittore, un attore, un mago della parola, uno che sa usare benissimo la parola, Alessandro Bergonzoni, buongiorno. Buongiorno a voi dell'invito, buongiorno ai vostri ospiti e spero di essere anche un pensatore, non solo un parlatore. È anche un pensatore, certamente, da sempre testimone della Casa dei Risvegli. Bergonzoni, io oggi Saviano fa un'intervista al Corriere della Sera e dice a domanda precisa: perché i pro-life no? Perché raccontare una storia d'amore come quella tra Welby e sua moglie Mina non significa oscurare altre voci. Il mio era un racconto d'amore, di sentimenti, di libere scelte. Non c'era nulla a cui replicare. Lei invece, Bergonzoni, che ha anche scritto una lettera pubblicata dal settimanale Vita, invitando Fazio e Saviano a ripensarci, che sente di dire a Fazio e Saviano? Io non ho invitato Fazio Saviano a ripensarci, posso rendermi perfettamente conto che in questo momento c'è un po' un'aggressione alla trasmissione spropositata e gli si dà un valore di risposta necessario e quasi pubblico-politico, mi sembra eccessivo. Io avevo solo chiesto a Fazio Saviano di poter raccontare la prossima volta, quando capiterà, non necessariamente in questo momento storico, ma di poter raccontare altre vite, altre possibilità, e magari chi ha scoperto che quando la vita cambia e anche le nostre decisioni cambiano, le convinzioni mutano, le nostre vedute si ampliano, potesse avere voce e un'occasione per dire, insieme a chi chiede di morire, se ci fosse anche qualcuno che racconta davanti a questo pubblico impaurito da questi casi, terrorizzato, e che vede soltanto delle voci, soprattutto delle voci che raccontano delle storie rispettabilissime, ho il piacere di conoscere per la prima volta la signora Min, di poter aggiungere il famoso anche, per raccontare che prima della libertà giustissima di decidere ciò che si vuole, se si ricercasse, se si andasse a scavare che cosa significa anche pensare in maniera diversa, sarebbe molto bello, non obbligatorio, molto bello. Certo, io, visto che questa è una trasmissione di elenchi, non le voglio fare un elenco, ma se le venissero in mente le prime 3-4 parole o associazioni di idee o frasi che in un ipotetico invito Alessandro Bergonzoni direbbe per la vita o per raccontare queste storie di persone malate, cosa le venire? Inconcepibile, impensabile, oltre, altro, differenza, non solo medicina, non solo realtà, spirito, anima, non solo religione, non solo chiesa, non solo laici. Questo è un esempio. Questo è un elenco bellissimo che, di cui la ringrazio, insomma. Anche arte. Io ho conosciuto Gian Piero Steccato, un Lockheed-in syndrome, con cui vado nelle università in Italia a raccontare agli studenti di una facoltà di medicina che ci sono delle persone chiuse dentro, che stanno vivendo e dicono che amano quel tipo di vita, non in contrapposizione a chi non ce l'ha fatta, ma insieme a quelli che non ce l'hanno fatta. Ma questi non lo possono raccontare a nessuno e hanno grosse difficoltà monetarie a voler vivere. Mina Welby ha sentito, qui c'è Alessandro Bergonzoni, a me pare che un po' di ipocrisia ci sia stata a questi giornali nel voler rappresentare come se fosse una contrapposizione frontale, no? Tra due storie, tra due modi di interpretare la vita diversa, una cosa che secondo me non è. Io l'elenco che lei ha letto delle ultime parole che suo marito Pier Giorgio le ha detto e vi siete scambiati l'ultimo giorno di vita, secondo me è un inno alla vita, non un inno alla morte, no? Assolutamente. Ecco, mi corregga se sbaglio. Sì, però perché questa contrapposizione? Bergonzoni, di aver parlato in questa maniera, io lo conosco già da tanti anni, l'abbiamo anche ascoltato insieme a Pier Giorgio, perché ricordo che qualche volta, mi sembra che scrisse anche su Finestra Aperta della Wildem, e abbiamo molto apprezzato la sua vicinanza all'handicap, alla difficoltà, e dunque quello che ha fatto Saviano in quella trasmissione, anche se fossero stati lì con noi le persone in gravissime difficoltà, non sarebbe bastato per far capire al grande pubblico la grave sofferenza che sta nelle famiglie. Comunque non è una contrapposizione tra chi, perché poi è stato manipolato la situazione. Però mi scusi signora Mina, perché Pier Giorgio era conosciuto come quel tale che aveva chiesto di poter morire, quindi si è subito saltato quello che ha detto veramente Saviano, cioè della sua vita, come ha apprezzato la sua vita, come siamo andati avanti insieme, e si è manipolato perché era una trasmissione per quelli che vogliono morire. No, non è una contrapposizione, perché era assolutamente solo per la libertà di scelta. Però io le chiedo questo, certo, io le chiedo questo, porre come hanno fatto Fazio e Saviano, dire siccome appunto non era una trasmissione, non era una testimonianza per la morte, allora non dobbiamo dare alcuna posizione per la vita. Non lo so, non mi è piaciuta tantissimo come giustificazione. Io non voglio giustificare nessuno, però io credo che è stato proprio perché è stato manipolato, forse per questo motivo avranno detto il no. E credo che già vedendo ieri tante trasmissioni che hanno dato la possibilità di venire al pubblico, vengono molto meglio così al pubblico, per esempio Domenica Inn viene vista da tutte le famiglie, oppure Vespa che si è offerto per far vedere trasmissione. Le loro difficoltà, anzi le ha già fatte vedere anche strumentalmente sotto l'onda per Eluana Englaro, e quello è molto molto dispiaciuto perché io ho sofferto per quelle famiglie che sono state strumentalizzate nel loro dolore, contrapponendo la loro vita difficile alla richiesta di Beppino Englaro per la libertà di scelta di Eluana. Ed è questo che io insisto, la libertà di scelta, libertà di poter vivere e non di dover vivere poi alla fine. Io vorrei sentire anche il parere di Fulvio De Nigris. De Nigris, abbiamo sentito in apertura Bergonzoni, io vorrei proprio uscire da questa contrapposizione che non è, però purtroppo si è creata pochino questa... Oggi purtroppo questo è un mondo di contrapposizione. Io saluto molto Mina Welby, apprezzo molto la sua storia d'amore, quindi non c'è nessun contrasto in questo, però obiettivamente i contrasti poi ci sono, perché c'è una realtà di famiglie che obiettivamente si sente offesa ogni volta che il padre di Eluana ha tutto questo spazio per ribadire una serie di considerazioni che sono giuste per lui e sono giuste anche per una libertà di scelta per la quale io sono favorevole, ma non sono giuste verso oscurare completamente, questo purtroppo lo devo dire perché Saviano in questo sbaglia, si oscura completamente questa realtà di famiglie che, mi creda Mina, non vengono strumentalizzate, sono persone che vorrebbero parlare in altre persone di Saviano. Io ho sentito Lucia Steccato, che Alessandro conosce molto bene, lei vorrebbe parlare in una trasmissione di 11 milioni di spettatori e questo io credo che sia una grande ingiustizia, ma mi creda, gli autori non debbono giustificare nulla e non debbono riparare nulla, il diritto di replica governativo non ha nessun senso, un autore fa quello che gli pare, io mi sarei aspettato da Fazio e Saviano, persone intelligenti, che prima ancora che il CDA avesse fatto, prima ancora, oppure che avesse invitato Mina Webbi e Lanno Englaro insieme ad altre persone che non sono pro-life, qui non è un aspetto di fede o cattolico, sono persone che sono pro-riabilitazione, pro-vita in convivenza con la malattia, pro-diritto di cura. Tutto questo viene completamente travisato da una contrapposizione in cui si dice avvenire contro Fazio e Saviano, non c'è un movimento per la vita che vuole andare da Saviano, no, vogliono andare le famiglie, vogliamo andare noi, ma per avere la stessa opportunità di dire cose, magari che sono anche molto simili a quelle che dice Mina Welby o che dice il padre di Ulana, ma sono da un'altra parte dell'Italia, quella è una realtà italiana che Domenica In, non se, quelle cose lì vanno bene, ma non è la stessa cosa, una trasmissione che guarda ad un'Italia diversa, come quella di Fazio e Saviano, dovrebbe guardare anche alla diversità e questo noi lo rivendichiamo con grande forza. Ma c'è stato, poi le chiederò tra un attimo, devo dare le informazioni sul traffico, se ci sono in atto dei contatti, perché magari chissà anche all'ultimo momento ci possono essere delle variazioni, ma fermiamoci, le informazioni sul traffico, poi rientro anche da Alessandro Bergonzoni. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Quello che ci chiediamo oggi è se secondo voi debbano andare anche i cosiddetti rappresentanti del movimento Pro Vita all'ultima trasmissione di Fazio e Saviano. Alessandro Bergonzoni, io le voglio offrire uno spunto da quello che scrive oggi Giuliano Ferrara, che fa il tradizionale commento del lunedì sul Foglio. Giuliano Ferrara dice: io spontaneamente e naturalmente sono solidale con la campagna di Avvenire, cioè quella Fateli Parlare, ma in realtà non mi piace l'idea che si debba chiedere la riparazione a Fazio, che è una richiesta pigra, disperata, la quale ci si acconcia quasi da mendicanti. Ecco, questa idea, cioè l'aver posto queste straordinarie storie che dovrebbero avere spazio come una sorta di riparazione necessaria, questo secondo me dà un po' fastidio anche alle stesse famiglie, o mi sbaglio? Io devo dire che lì si sta caricando di una responsabilità o di una mancanza eccessiva, devo dire, anche perché probabilmente avranno altri modi per chiedere e raccontare. Indubbiamente 11 milioni di persone che guardano una trasmissione altra, guardiamoci fuori dai denti, io non voglio giudicare Domenica In, ma la giudico, non voglio giudicare Vespa, ma lo giudico, c'è tanta retorica, c'è tanta partitica, c'è tanto salotto, là sembrava ce ne fosse meno, ovviamente alla gente viene voglia, come la moglie di Giampiero Steccato e tante altre associazioni, di dire lì è più bello, lì più importante, lì c'è più serietà, ovviamente, con tanti difetti che può avere la trasmissione, e c'è un po' di accanimento. Poi viene voglia di dire: chissà se 11 milioni di persone potessero mai vedere un caso di una persona che sembra inguardabile, che sembra impensabile, vedere in una condizione di vuoto e sentire che invece è pieno, chissà se 11 milioni di persone potessero vedere contemporaneamente che non c'è un corpo solo, una medicina sola, una verità sola, una religione sola, una legge sola per alcuni, chissà, questo è stato mosso dai numeri di una certa qualità che va riconosciuta a Saviano e a Fazio. Senta, vista che qua c'è Mina Welby, lei si sente di dire qualcosa la prima volta che vi conoscete o che vi parlate, ha seguito la sua storia? Ma io ho seguito la sua storia, che è profondamente una storia d'amore, ma follia pura non crederlo. La libertà è quella di decidere. Chiedo solo se fosse possibile chiedere anche a questa meravigliosa donna se potesse raccontare che ci sono anche persone che hanno il desiderio di continuare a vivere non con dolore e con paura o con disperazione, ma con una gioia infinita, senza essere utili, senza essere uguali e senza essere presentabili. Mina Welby, e aggiungo a questo, se vuole replicare, oggi Giuliano Ferrara parla anche del suo caso, come quello di Beppino Englaro, dice: non siamo ipocriti, non erano storie private, erano manifesti ideologici, opinabili o no, e quindi per questo assumono la forza di un contromanifesto ideologico che si potrebbe portare in trasmissione. Ma non era un manifesto ideologico quello che ha fatto Pier Giorgio, e né ha fatto un manifesto ideologico Beppino Englaro. Abbiamo chiesto libertà di scelta quando le cure erano inutili. Proprio secondo, potrei proprio riferirmi all'articolo del Catechismo 2278, che quando le cure sono inutili, futili, eccetera, il malato può chiedere, allora gliela voglio citare precisamente: l'interruzione delle procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie, sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte, si accetta di non poterla impedire, e le decisioni devono essere prese dal paziente se ne ha la competenza e la capacità, o altrimenti da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragione. E questo sì, però ha sentito l'invito. Ora, l'invito. Altra cosa voglio aggiungere, sì, che io conosco tantissime persone, conosco anche personalmente via mail e per telefono Lucia Steccato, e ne sono veramente ammirata della forza di volontà che ha Giampiero, e lo saluto veramente da qui, da questa radio, e mi batte fortissimamente il cuore, e conosco anche tante altre persone. Lui non ha tutte le possibilità di essere assistito, e ci sono tante persone per le quali io combatto insieme a Maria Antonietta Farina Coscioni, la nostra deputata, il mio presidente dell'associazione Coscioni, perché vengano date veramente i livelli essenziali di assistenza che ancora non sono nemmeno attuati. E il nomenclatore tarifario che sta aspettando di essere attuato e rinnovato dal 1999. Tante volte i pazienti gravissimi devono aspettare mesi e mesi per avere. Però vede antidecubito. Vede appunto Mina. Cose voglio parlare. Ma infatti è questo l'invito che le ha fatto Alessandro Bergonzoni, in fondo è questo, cioè di raccontare dall'alto della sua straordinaria storia d'amore con Pier Giorgio, che ci sono anche altre storie d'amore, ma lei ci sta dicendo che le conosce, che ne è in contatto, che le segue. Fulvio De Nigris, le chiedo, ma ci sei, perché però concentrarsi su questa trasmissione? Questa trasmissione era il palcoscenico, uso una parola brutta, che si voleva questa sera. Purtroppo torniamo un po' all'autore Orwell, quando parlava il famoso momento dell'odio, no? Nel quale purtroppo, quando queste persone, che pure hanno una storia d'amore da raccontare, e io sono d'accordissimo con quello che dice Mina Welby, sono le stesse rivendicazioni che abbiamo noi, ma quando si vede una trasmissione Englaro, per esempio, oppure la Mina Welby che parla di staccare la spina senza dire tutto questo che giustamente ha detto adesso, purtroppo è un aspetto ideologico. Qui ha ragione Giuliano Ferrara, è un aspetto ideologico. Io sono d'accordo anche con quello che diceva l'altro giorno Polito sul Riformista, sì. Sono d'accordo su altro, cioè qui il discorso non è di Avvenire, quando si parla di Avvenire che ha fatto un ottimo lavoro, ma quando si parla di Avvenire cosa si vuole fare? Si vuole distruggere e ricondurre tutto ad un rapporto chiesa e altro, non è così. Qui purtroppo parliamo di tante persone che sarebbero ben felici di stare con Mina Welby e Lana Englaro davanti a Fazio e parlare, ma la domanda da porsi è anche questa: non credo Mina Welby, ma Beppino Englaro sarebbe disponibile a sentire tutte le cose che dicono le persone? Io devo dire con molta franchezza, nel periodo in cui il padre di Luana ha avuto la sua triste vicenda, molte famiglie lo hanno chiamato perché lui andasse a vedere, lui si è sempre sottratto. ma forse anche ha ragione il sottratto, perché la sua logica era un altro. Io penso che ci vorrebbe una riconciliazione, ma da tutte e due le parti. E allora lei mi ha chiesto se una trasmissione vale la pena, ma sa, queste trasmissioni purtroppo oscurano, perché è la verità dei fatti. Saviano non può dire che non oscura, perché la comunicazione è questa. C'è un grande difetto di comunicazione. Le faccio un esempio. L'altro giorno sono stato invitato da Repubblica Salute ad un convegno nel quale si parlava di testamento biologico. Io ed Englaro intervistati da Guglielmo Pepe, un incontro molto sereno. Beh, io ho fatto molta fatica a esporre le mie idee, le mie concessioni, che sono molto di buonsenso e molto di diritto, come quelle di Alessandro Bergonzoni, contro una platea che era tutta dalla parte di Englaro e che il giornalista mi ha dovuto difendere lui per cercare di farmi parlare. Allora, questo che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo lavorare molto sulla comunicazione, sull'informazione, perché la gente e molto spesso i giovani nelle scuole non sanno e loro devono sapere, poi possono decidere, ma almeno devono sapere. Ecco, l'Italia deve sapere. Allora, io qui mi devo fermare, chiedo scusa anche per gli ascoltatori, oggi non c'è stato tempo per intervenire. Voglio ringraziare davvero molto Alessandro Bergonzoni per essere stato con noi, così come Fulvio De Nigris e Mina Welby. C'è da dire che il 56% oggi per il momento dice no, non vogliamo lo spazio in TV, ma l'ho dato alla fine il termine del sondaggio. I numeri mi interessavano relativamente. Saluto Laura Faggin oggi in redazione con Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina.